Sigla! 1, 2, 1, 2, 3, and 4! Elmo e suoi Soratis vi augurano una buona notte. Allora vi salutiamo. Ciao! Un bel applauso!